Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Con voi come sempre Sebastiano Barisoni, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, le reazioni all'accordo raggiunto per la Grecia, accordo già raggiunto a livello formale, ma adesso sono arrivati anche i numeri, i soldi, e i 30 miliardi, ma non solo, la divisione di questi soldi, perché alla fine 30 miliardi era la cifra iniziale, poi abbiamo scoperto che in tutto saranno 42-45 miliardi che arriveranno alla Grecia, 30 miliardi europei e altri 12 o 15, vedremo, dal Fondo Monetario Internazionale. E reazioni dei mercati, devo dire, buone. L'euro è in netto rafforzamento, è tornato sopra quota 1,36 nei confronti del dollaro soprattutto. Le borse sono tutte positive, la migliore è Milano più 0,8%, Parigi più 0,2%, Francoforte anch'essa, Londra più 0,2%, l'America più 0,2%. Questa mattina il Giappone aveva chiuso in rialzo dello 0,4%. Tra i titoli segnaliamo bene Telecom Italia e UniCredit che guadagnano il 2%, Intesa l'1,80%, Saipem l'1,60%, 1,5% Exor, l'1,2% Autogrill e anche Impregilo l'1,1% di rialzo per Buzzi, Unicem, Lottomatica e Fiat. Male Prismian, meno 2,1%, A2A meno 1% come Italcementi. Però la Grecia fa discutere anche per degli attriti che si stanno creando sul ruolo della Germania. La Germania ha delle elezioni regionali molto importanti a inizio maggio, quindi c'è anche un tatticismo politico, ma insomma continua a storcere il naso nei confronti degli aiuti alla Grecia, a chiedere dei distinguo. E tra l'altro la Germania è il paese più esposto quanto a banche proprio sugli aiuti alla Grecia, 30 miliardi complessivamente, di cui 8,5 di pertinenza tedesca, visto che con la Francia la Germania è appunto il paese dell'area euro che ha il maggior numero anche di esposizioni bancarie sulla Grecia. Le quote in realtà non sono decise sulla base di questo, sono decise sulla base delle partecipazioni anche dentro la Banca Centrale Europea. Comunque all'Italia aspetteranno 5,5 miliardi, il terzo intervento quanto dimensioni dopo quello tedesco, 8,5 miliardi, Francia 6,3 miliardi, l'Italia appunto 5,5 miliardi. Però attenzione, non sono soldi che vengono dati, poi lo spiegheremo, sono obbligazioni, prestiti, i prestiti vanno ritornati con gli interessi. E quindi Grecia, ma anche il ruolo della Germania che sembra frenare o è accusata tra virgolette di egoismo, di essere poco sensibile alla tenuta di tutti i paesi europei, insomma di concepire l'Europa solo a sua immagine e somiglianza. Poi parleremo del Vinitaly, perché ogni tanto, dopo averlo fatto venerdì, oggi il Salone del Vino a Verona chiude, numeri buoni, soprattutto clima buono, e devo dire che con le cifre che spesso commentiamo non è cosa da poco. Il settore del vino ha sofferto meno di altri e tutti i segnali che sono arrivati a livello anche di ordinativi internazionali dal Vinitaly fanno sperare, o comunque danno la sensazione di un cauto ottimismo sulla ripresa del settore. Ancora nel corso del programma parleremo della vicenda invece, la polemica dopo la due giorni del centro studi Confindustria a Parma. L'Italia in declino, se si guardano i numeri del PIL pro capite, no, ha risposto il Presidente del Consiglio, se guardiamo l'export e l'andamento dell'export questo paese non è in declino, alla luce di un dato diffuso oggi tra l'altro che è quello più aggiornato sulla produzione industriale. Da qui partirei per le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. Eh sì, perché? Perché il dato sulla produzione industriale di oggi vede l'Italia nel mese di febbraio salire del 2,7% quanto a produzione industriale, che è il livello più alto dal 2008. Questo febbraio 2010 su febbraio 2009, febbraio 2010 su gennaio invece la produzione industriale è rimasta ferma. Comunque è il primo rialzo nella produzione industriale dall'inizio del 2008. Ancora i settori che meglio sono andati: meccanica sofferto, ma non come nei mesi precedenti, -1,3, sempre rispetto a un anno prima. Bene l'elettronica, +10%, la chimica +15%, farmaceutica +3%, tessile e abbigliamento +1,3%, alimentare +1,3%. Il dato sulla produzione industriale è stato oggettivamente trainato dagli autoveicoli, +16% a febbraio rispetto a un anno prima. E il ministro Scajola ha detto: il dato sulla produzione industriale è la miglior risposta a chi parla di declino, e poi ha chiesto che comunque vi siano risorse disponibili per sostenere le imprese italiane e l'export. Devono essere allargati i cordoni della borsa, ha detto Scajola, per sostenere la ripresa. Nel frattempo però l'OCSE oggi, fotografando l'andamento dell'attività economica dei vari paesi, vede un'America e un Giappone in crescita, con segnali più forti di ripresa dell'attività economica. Frena leggermente la Cina, ma insomma lì la crescita resta a due cifre, e c'è una frenata, secondo l'OCSE, nella ripresa economica in atto in Francia e in Italia. Parleremo anche di Basilea 3, ossia quell'insieme di regole che le banche dovranno adottare che rischiano di rendere fuori dal mondo, da un lato, la possibilità per le banche di concedere credito alle imprese. I bilanci infatti del 2009, quelli che verranno pubblicati quest'anno, saranno bilanci pesantissimi. Se uno li guarda così, senza rendersi conto di quello che è successo in questi due anni, saranno pochissime le imprese che potrebbero ottenere credito dalle banche. Ecco perché si è chiesto l'ho chiesto anche Confindustria, una moratoria in qualche modo su Basilea 3, sulle nuove regole per valutare la qualità dell'impresa a cui tu concedi credito. Vedremo, anche qui la posizione è abbastanza tedesca, dicono alcuni, sicuramente appoggiata Basilea 3 dai banchieri centrali europei. Presentata oggi al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano la nuova Giulietta, la nuova vettura dell'Alfa Romeo. L'hanno presentato il presidente di Fiat Montezemolo, John Elkann, e anche Sergio Marchionne, che è amministratore delegato della Fiat. Marchionne, a margine della presentazione, il presidente della Repubblica ha ribadito che il gruppo Fiat continua a credere nel marchio Alfa. I nomi sono storici, i modelli sono totalmente aggiornati. Non l'avremmo fatta crediamo nel marchio, noi crediamo nel riposizionamento dell'Alfa. Sarà l'ultima Alfa fatta in Italia? Non credo. E spero di no. E poi Marchionne è tornato su Termini Imerese dicendo che si sta lavorando con il ministro Scajola e parlerà il ministro per quello che riguarda il futuro dello stabilimento siciliano della Fiat. Allora, primo tema, dicevamo, raggiunto l'accordo tra i paesi europei per l'aiuto, il piano di sostegno alla Grecia. 30 miliardi europei più altri 12-15 del Fondo Monetario Internazionale, mentre però nel frattempo la Germania continua, diciamo, a esercitare intanto una forte pressione e ruolo, ma anche a dilettarsi, mettiamola così, nei distinguo. La Germania in questo momento viene accusata da alcuni soggetti, anche a livello politico, di essere poco europeista, di pensare un po' troppo a se stessa, alla sua economia, e non al fatto che si è comunque tutti dentro una moneta unica, dentro un continente, almeno da un punto di vista delle politiche economiche, unito come l'Unione Monetaria Europea. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, Grecia e Germania. Come verrà suddiviso questo prestito? 8 miliardi e mezzo li metterà la Germania, 6 miliardi e la Francia, 5 miliardi e 5 l'Italia, 3 miliardi e 7 la Spagna, l'Olanda 1 miliardo e 7, il Belgio 1 miliardo e 100 milioni di euro. Ripeto, lo dico a chi scrive, è un prestito, quindi come tale viene restituito e poi permette anche di avere interessi. Non è detto che, infatti, i paesi che stanno per prestare i soldi alla Grecia non ci debbano guadagnare. Nel caso dell'Italia, per esempio, questo prestito non dovrebbe avere nessun tipo di impatto sui conti pubblici, perché per il finanziamento si sta pensando all'emissione di titoli di Stato e nel bilancio pubblico la nuova emissione verrebbe compensata dai crediti vantati verso la Grecia, cioè una specie di partita di giro, se mi passa del termine, che con il tasso dei prestiti ad Atene al 5% potrebbe anche chiudersi con un guadagno per l'Italia. La reazione dei mercati, dicevamo, l'euro a quota 1,36, allora ci colleghiamo con Vittorio Darold che sta seguendo come inviato del Sole 24 Ore la crisi greca da quando è scoppiata. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. E grazie anche per averci raggiunto in collegamento all'economista Franco Bruni, che è editorialista della Stampa e insegna economia monetaria internazionale alla Bocconi di Milano. Buonasera. Buonasera. E buon compleanno, perché so che è anche il suo compleanno, professore. Vabbè. Allora, Vittorio, poi arriviamo ai temi più di carattere quasi politico, della tenuta o meno di questa Europa, che quando c'è un problema ognuno fa per sé e va da sé. Ma insomma, domani c'è una prima emissione obbligazionaria greca, che quindi la Grecia chiederà soldi per il suo debito sui mercati internazionali, che è un primo test importante, e se ho ben capito però sono già arrivati oggi i primi distinguo, stranamente, ancora una volta, tedeschi. Vittorio. Sì, esattamente. Domani il governo greco farà un'asta di 1,2 miliardi di euro, quindi non è molto molto alta, 6 mesi e 12 mesi, sono dei treasury bills, quindi facilmente collocabili in situazioni normali. La cosa è molto importante perché il mercato vuole capire a quali tassi la Grecia riuscirà ad ottenere appunto soldi nel mercato internazionale. Si tenga anche conto che il governo sta preparando un roadshow negli Stati Uniti che dovrebbe partire a fine aprile, dove tenta di portare a casa dai 5 ai 10 miliardi di dollari proprio per il mercato americano, e passerà con il ministro delle finanze a New York, Boston e poi andrà fino in California. Ma l'altro elemento di difficoltà, di perplessità della giornata viene proprio da un portavoce del governo di Berlino che ha detto: attenzione, prima di dare il prestito bisognerà convocare un summit dei leader europei. Insomma, quello che si è detto ieri, cioè che sembrava ormai automatico un piano per salvare la Grecia, secondo adesso l'interpretazione autentica di Berlino, ci vuole ancora un passaggio. Tutto questo, secondo gli analisti, vuol dire semplicemente che Berlino il 9 maggio, fino al 9 maggio, data delle elezioni importantissime locali nella Renania-Vestfalia, ricordiamo un land di 18 milioni di abitanti, dove si produce un quarto di tutta la produzione tedesca, ecco, il cancelliere tedesco Merkel non vuole arrivare a quella data con qualcuno, come già oggi è stato fatto dall'Associazione dei contribuenti tedeschi, dica i soldi tedeschi sono serviti per aiutare a salvare la Grecia. Allora, un ennesimo, come tu ricordavi, stop and go, come dicono gli istruiti, o tira e molla, come diremmo noi in Italia, da parte della Germania. Il piano sembrava già pronto, tutto, e i soldi messi già a disposizione. Adesso la Germania dice: aspettiamo un attimo, vogliamo vedere. Bisognerà capire, e sullo sfondo, tu ricordavi giustamente, le elezioni regionali molto importanti che ci saranno il 9 maggio, l'8 maggio in Germania. Al di là, voglio dire, Vittorio, siamo tutte persone di mondo, la tattica politica esiste dovunque, esiste anche in Germania, però al di là di questo è chiaro ai tedeschi che, essendo loro esposti, se non ricordo male, come banche, per circa 40 miliardi nei confronti della Grecia. L'Italia, per esempio, come esposizione delle banche, di prestiti delle banche italiane ai greci, è esposta solo per 5 miliardi. Dicevo, è chiaro a loro che se la Grecia non venisse in qualche modo aiutata, salvata, loro ci rimetterebbero ben più di 8 miliardi. Cioè, se la Grecia va in default, tutti questi 40 miliardi quasi di prestiti tedeschi alla Grecia non li rivedono più. È esattamente questo. Infatti le banche tedesche stanno premendo sul cancelliere Merkel perché si faccia questo accordo, perché altrimenti appunto i costi del sistema bancario tedesco dovrebbero poi essere in qualche modo rifinanziati sul mercato, e come voi sapete anche il governo tedesco ha dovuto aiutare il suo sistema finanziario con degli aiuti. Quindi conviene a tutti salvare la Grecia, tenendo conto che è sempre un tasso di interesse al 5%, oltre il 5%, che è vero che è meno del 7% attuale di quello che paga Atene, ma è pur sempre molto di più di quanto costi alla Germania andare sul mercato e quindi poi rifinanziare la Germania. C'è almeno un 350 punti base di guadagno su questo, che non è poco. Sì, tra l'altro, e qui non voglio tirare una gufata, quindi non useremo il nostro animale, il nostro gufo, però attenzione, perché se il timore nel caso greco era del cosiddetto effetto domino, e cioè che non salvata la Grecia poi si rischiava il contagio con altri paesi in difficoltà, i pigs con una I, quindi Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, io faccio solo notare, giusto a livello cautelativo, non per tirarla a nessuno, che insomma le banche tedesche sono esposte per quasi 504 miliardi, scusatemi, 504 miliardi nei confronti di questi paesi, e di 350 miliardi sono esposte le banche francesi, per cui non conviene a nessuno, men che meno alle banche tedesche e francesi, innescare un principio di effetto domino, di contagio sulla tenuta dell'euro e dei paesi che praticamente vi fanno parte. Professor Bruni, mi sembra di aver notato anche a Parma, dove eravamo in diretta con Focus Economia e poi con lo speciale di sabato, che nel dibattito economico e politico, più che della crisi greca che ormai ha preso la sua strada, si stia introducendo un nuovo elemento, il problema tedesco. Allora, per far capire di cosa sto parlando, io vi faccio sentire cosa ha detto il ministro Giulio Tremonti venerdì a Parma, e il riferimento alla Germania era netto, e cosa poi ha risottolineato la presidente di Confindustria Marcegaglia sabato nella sua relazione conclusiva, anche qui il riferimento alla Germania e all'atteggiamento tedesco era abbastanza chiaro. Giulio Tremonti. Ci sono dei paesi grandi che devono dimostrare in questi giorni, in queste ore, questo weekend, che devono dimostrare di essere anche grandi paesi. E tra questi c'è e ci deve essere l'Italia. Quello che manca è il ruolo di altri paesi, che sono dei paesi grandi, ma che non hanno ancora dimostrato di essere davvero dei grandi paesi. E per essere chiari, forse deve finire l'illusione, io ho il biglietto, ho in tasca il biglietto di prima classe e allora mi salvo. Non è esattamente così. O tutti o nessuno. L'Europa oggi vive una situazione di scarsa crescita, di disavanzi crescenti e di gap crescenti di competitività tra paesi. Tra la Germania e la Grecia c'è un gap enorme e tutto quello che è stato fatto fino adesso non ha ridotto questo gap, anzi in un certo senso l'ha ulteriormente aumentato. È certo che la crisi greca ha evidenziato questo aspetto. Allora la nostra posizione è che andando avanti esclusivamente, tagliando i disavanzi, tagliando le retribuzioni all'interno, ognuno facendo la casa propria, noi andiamo nella direzione di distruggere l'Unione Europea e il mercato europeo. Questo sarebbe un danno enorme non solo per i paesi più deboli, ma anche per i paesi più forti come la Germania, che oggi non vedono con chiarezza questa situazione. Allora noi pensiamo che di fianco alla giusta politica di rigore sui conti pubblici, che anche per noi è un valore importante, bisogna che l'Europa riprenda un suo percorso di crescita, faccia crescita aggiuntiva e lavori per ridurre i gap tra i paesi più forti e i paesi più deboli. Se noi non facciamo questo, ripeto, la situazione può peggiorare e noi guardiamo questo con grande preoccupazione. Allora pensiamo che per esempio l'Europa potrebbe finalmente prendere questa scelta di cui si parla da tanto, ma poi ci sono sempre i grandi paesi che dicono no, di emettere degli union bonds, avere accanto a debiti pubblici nazionali un debito pubblico europeo che non serva per coprire spesa pubblica improduttiva, ma serve invece per investimenti in infrastrutture, in ricerca, in innovazione, in sostenibilità ambientale, che ridia una crescita vera all'Europa. Insomma, con un taglio leggermente diverso ci mancherebbe, ma insomma la frase di Tremonti, occorre che alcuni paesi grandi dimostrino anche di essere dei grandi paesi, era riferita a tutta la Germania, e poi la stessa presidente di Confindustria Marcegaglia ha citato questa attenzione spasmodica solo per i conti, per il rigore, non si vuole aiutare la Grecia a livello europeo, non si vuole neanche utilizzare un'emissione di obbligazioni, i cosiddetti euro bond, union bond, obbligazioni europee per sostenere gli investimenti infrastrutturali. Professor Bruni, c'è secondo lei, visto che lei questo insegna, un problema tedesco in Europa a questo punto? Ma io credo che il professor Tremonti sarà contento del fatto che questo famoso paese grande, che doveva dimostrare di essere un grande paese, l'ho dimostrato. Ieri, nonostante siano sotto elezioni, hanno dovuto anche molto insistere, credo, con alcuni di, alcuni dei loro della seconda linea, insomma i leader della Germania, hanno dimostrato di essere dei leader europei. E devo dire che Schäuble in particolare lavora da tempo a molti progetti europei di grande peso, e la signora Merkel ha dimostrato al momento giusto di essere in grado di dire la parola decisiva. Non vedo una... Certo, la Germania è in un momento difficile da diverso tempo nei confronti dell'Europa, ha una leadership talmente forte e potenziale che finisce a essere sospettosa, è molto divisa al suo interno, ci sono naturalmente grosse frange anti-europee, c'è una forte immigrazione, ci sono tensioni di vario tipo, è una situazione anche partitica complicata, ma al di sopra di questo mi sembra che la leadership resiste ancora ed è molto più orientata agli interessi europei di quanto non siamo noi, che abbiamo addirittura un provincialismo proprio di piccolo. Mi sembra anche molto giusto quello che diceva Marcegaglia, cioè che c'è bisogno subito di far seguire a queste decisioni di emergenza dei progetti di costruzione europea molto più impegnativi che quelli di salvare un piccolo paese come questo. Anche perché se non lo si fa, io non sono mica tanto d'accordo che il domino viene scongiurato da queste decisioni, perché adesso i mercati potrebbero essere tentati di testare la volontà dell'Eurogruppo di aiutare anche qualcun altro, visto che hanno aiutato la Grecia, perché non possono aiutare il Portogallo, e poi la Spagna, cioè, e poi magari l'Italia. Cioè, quindi c'è bisogno che subito adesso ci si metta a lavorare per creare delle nuove fare delle riforme a livello europeo che valgano nel medio e lungo periodo, ma l'annuncio avviene subito e danno alla gente l'impressione che l'Europa c'è, cresce, sì, ed è in grado di incidere sulle decisioni di bilancio dei singoli paesi. Un'ultima domanda, professor Bruni, però lei dice che la Germania ha dimostrato di essere anche un grande paese perché ha appoggiato le decisioni sulla Grecia. Devo dire però che se guardiamo l'atteggiamento tedesco di queste ultime settimane, è impensabile che la Germania faccia o farà mai passare delle obbligazioni europee per finanziare le grandi infrastrutture, le grandi reti di trasporto, per esempio. Perché la Germania ha avuto difficoltà anche a solo ipotizzare, infatti ha detto di no, che l'Europa usasse, diciamo, come soldi europei, non dei singoli paesi, dei miliardi di euro da dare alla Grecia. Io la vedo molto arroccata. Al Ministero delle Finanze tedesco stanno studiando da tempo questo che ha impropriamente stato chiamato progetto di fondo monetario europeo. In realtà non bisognerebbe chiamarlo così, perché non è un fondo monetario, è un European Government Debt Fund, una cosa del genere. Ci stanno lavorando sul serio, quello potrebbe essere, insieme alla Banca Europea degli Investimenti, il nucleo centrale per fare e studiare sul serio le aiuti europei. Quindi non sarei così pessimista, bisogna capire, una leadership tedesca che è in difficoltà, con delle elezioni difficili, bisogna mettere. Quello che i tedeschi devono fare al loro interno è spingere molto di più la domanda interna sui servizi, soprattutto, ma più che la domanda, è un problema di offerta. Loro devono fare liberalizzazioni, loro devono fare delle riforme strutturali loro interne per aumentare la competitività dei settori non esportatori. È questo che l'Europa dovrebbe insistere nei loro confronti. Se esistesse un'autorità europea veramente autorevole anche con i tedeschi, quello che gli direbbe: beh, voi dovete presentare un piano per riequilibrare la vostra offerta, che oggi è troppo concentrata sulle esportazioni e invece è ancora piena di vincoli, compresi gli orari dei negozi e tutto quanto, sui servizi. Loro sono poco poco liberalizzati da questo punto di vista. Vittorio Darold, un'ultima domanda. Dopo le missioni di domani sulla Grecia, perché ce lo chiedono gli ascoltatori, quali saranno le altre date significative a cui guardare? Ma sicuramente quando Atene appunto si recherà negli Stati Uniti per questo show, quindi entro fine mese, per raccogliere tra i 5 e i 10 miliardi di dollari, e il passaggio del piano della finanziaria greca che è previsto a giorni in Parlamento, se appunto non ci saranno poi scioperi e tensioni, perché ricordiamo, certo, la Grecia ha approvato un piano lacrime e sangue che taglia profondamente almeno del 20% i salari appunto dei dipendenti pubblici, ha aumentato l'IVA di un punto, ha aumentato la benzina, ha ridotto molte facilitazioni e agevolazioni per andare appunto in pensione. Insomma, è un paese che ha varato una maxi stretta finanziaria. Sì, purtroppo un po' sul modello italiano, su chi ha un lavoro visibile, nel senso che la Grecia ha un nero, cioè un'economia sommersa che in proporzione è anche superiore a quello che è il peso di quella italiana. Forse dovrebbero combattere anche loro l'evasione e il sommerso. Comunque hai ragione a ricordare l'appuntamento con il roadshow, cioè la presentazione di questa richiesta di aiuti, di soldi, di sottoscrizione del debito negli Stati Uniti. Grazie Vittorio Darold da un lato, grazie al professor Franco Bruni dall'altro. Meteo, pubblicità e poi la borsa. Un po' di ottimismo che è arrivato per fortuna dal Vinitaly, dai numeri alla mano e ordinativi alla mano. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa e poi passiamo agli altri temi di questa puntata. Allora, più 0,80% il FTSE MIB, più invariato anzi adesso Parigi, più invariato anche Francoforte, tutte hanno ritracciato nel finale le borse europee. Londra più 0,14%, l'America più 0,20%, peggior titolo Prismian, meno 2, Italcementi meno 1,1 come A2A, lo 0,80 lo perdono Pirelli e Mediaset, ma anche Ansaldo e CTS. Bene, invece, le banche a partire da Unicredit più 2,2, Telecom più 1,80 come Intesa, Saipem più 1,70, Exor più 1,3, Impregilo pure guadagnano 1,3% e anche Autogrill. Popolare di Milano più 0,80 come Banco Popolare, Buzzi Unicem più 0,7 come Fiat. Chiudiamo con Monte dei Paschi, Lottomatica ed Eni che guadagnano lo 0,6%. Paolo Paronetto, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Telecom e i bancari. Sì, per quanto riguarda i bancari, diciamo che il tema generale in tutta Europa è stato il sollievo per l'intesa raggiunta tra i paesi europei sulle condizioni e degli aiuti alla Grecia, che ha immediatamente allentato la tensione sulle condizioni delle finanze pubbliche e del paese. Ne hanno beneficiato appunto soprattutto i titoli bancari. A livello continentale il sottoindice di settore è stato il migliore, ha guadagnato lo 0,88% non ha fatto eccezione Milano, come ricordavi tu, Unicredit miglior titolo del paniere principale, ne ha rialzato del 2,2%, ma anche Intesa e gli altri titoli principali. Ovviamente le banche pesano molto sul listino milanese ed è questa la ragione per cui Milano ha fatto segnare la migliore prestazione tra le borse europee, ad eccezione ovviamente di Atene, che ha guadagnato circa 3,5 punti. Per quanto riguarda Telecom, ricordiamo che l'attenzione è alta sulla società. Oggi è in corso il consiglio di amministrazione che approverà dopo due rinvii i conti 2009, e nel frattempo è arrivata una promozione da parte degli analisti di BNP Paribas, che hanno alzato la raccomandazione sul titolo a neutral dal precedente underperform, e ovviamente tutti attendono domani, quando i conti saranno presentati al mercato. Questo per quello che riguarda banche e Telecom, appunto i conti di domani. L'euro ha recuperato a quota 1,36 sul dollaro, però tiene bene Autogrill più 1,2%. La peggiore, citavamo, è Prismian, Però insomma, viene da intere sedute di rialzo, sono solo realizzi? Sì, per quanto riguarda Prysmian non c'è nessun motivo particolare per questa flessione, e Prysmian è stato nelle ultime due settimane, anzi nell'ultimo mese, tra i migliori in assoluto del listino milanese. Dal 18 marzo il titolo ha guadagnato oltre il 15% e un altro rialzo è stato messo a segno anche nel periodo precedente, quindi in questo momento è soprattutto una serie di realizzi da parte di investitori che avevano preso posizione nelle scorse settimane. Ancora sui titoli, tracciamenti meno 1,1, anche in pregilo oggi ha avuto un andamento significativo, ma all'opposto, perché come ricordavamo è tra i titoli più forti, nel più 1,3% in pregilo. Per quanto riguarda Impregilo ci sono state una serie di indiscrezioni, della verità discordante, sui possibili movimenti nell'azionariato. A metà giugno scade il patto di sindacato tra i grandi soci di Igli, che ricordiamo sono i Benetton, i Gavio e i Ligresti. Secondo alcune indiscrezioni diffuse in mattinata, i Ligresti potrebbero valutare un'uscita dal gruppo, ma nel pomeriggio ha preso piede invece un altro scenario che vedrebbe i soci andare verso un rinnovo triennale del patto. Comunque, in attesa di vedere quali saranno le evoluzioni dell'azionariato del gruppo, il titolo è stato sotto i riflettori e ha riconquistato quota 2,6 euro. Ancora tra i titoli, la Roma Calcio, lo dico visto che insomma, oggi avete commentato in molti casi il sorpasso della Roma. La Roma Calcio oggi è andata benissimo in borsa, è arrivata a crescere, se avete ben visto Paolo, più del 7%, ha poi chiuso con un più 5%, molto bene. Intech più 6,70%, Danone più 6,5%, Coin più 6,3% e Uniland più 4,4%. Male invece alcuni titoli, tra cui Cell Therapeutics meno 3,20%, Poligrafici meno 2,80%, Best Union meno 2,7%, visto che poi parleremo del Vinitaly. Campari oggi molto in antenna, l'abbiamo vista. Sì, Campari oggi è stato un titolo abbastanza volatile, sul finale ha limitato meno 0,65%, esattamente, in calo dello 0,65% con una chiusura a 7,7 euro. Non ci sono notizie particolari, oggi molti quotidiani sono tornati sull'argomento per ricordare i 150 anni che l'azienda compie proprio in questi giorni. Ricordiamo che il titolo, dopo forti rialzi nel mese di marzo, ha perso già il 7% dallo scorso 30 marzo, giorno della pubblicazione dei conti 2009, che sebbene in rialzo sono stati inferiori alle attese del mercato, e anche oggi è continuato questo movimento dopo una serie di sedute in altalena che ha appunto portato il titolo in calo di circa lo 0,6%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Colli, Sole 24 Ore. L'America continua a guadagnare uno 0,20%, adesso c'è il traffico e poi i dati di questo Vinitaly che si è appena chiuso, di un settore che, come spesso ricordiamo, significa il 20% di tutto il nostro settore agroalimentare quanto a export e oltre 8 miliardi di giro d'affari. ...17:46, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo, oltre attesi alla fine forse 150.000 visitatori, sicuramente più di 100.000 visitatori per questa 44esima edizione del Vinitaly, 92.000 metri quadri di esposizione, 12 padiglioni e 4.200 espositori che arrivavano tra l'altro da Oceania, America, Europa e Africa, oltre 40 invece da tutti i paesi praticamente del mondo che bevono vino, 40 i buyers, le nazioni rappresentate tra i compratori. Ottimismo che si registrava in apertura e anche adesso in conclusione, di un settore che comunque ha aumentato i volumi anche nel 2009, non il valore dell'export, ma ha tenuto bene, soprattutto ci sono dei casi di eccellenza, pensa al Prosecco che ha aumentato notevolmente di oltre il 20% le vendite, mentre lo Champagne di un 20% ha perso quota di mercato, e questo ci rende soddisfatti. Abbiamo fatto un giro tra ieri, l'altro ieri e oggi con i principali, o meglio, i principali, abbiamo avuto gli ospiti venerdì, ma con altri operatori produttori di vino, sempre alternando grandi dimensioni con piccole dimensioni. Chiedendo innanzitutto un commento del Vinitaly e poi anche come stanno andando i primi segnali di recupero dell'export. Inizia Ettore Nicoletto, che è amministratore delegato di Santa Margherita, che vuol dire 81 milioni di euro di fatturato, 15 milioni di bottiglie prodotte, il 50% se ne va all'estero, di cui tra l'altro 7 milioni di vendute negli soli Stati Uniti, di Pinot Grigio, un successo veramente straordinario. E allora il giudizio di questa edizione del Vinitaly? Beh, allora innanzitutto un Vinitaly sicuramente all'insegna della vivacità, i flussi sono importanti, credo anche superiori a quelli dell'anno 2009, e questo è positivo. È chiaro che una valutazione quantitativa non è sufficiente, ma devo anche dire che presso il nostro stand, ma parlando anche con altri operatori, insomma, possiamo dire che anche la qualità dell'operatore c'è, e ci sono anche segni di, se vogliamo, strisciante, ma comunque di ottimismo, che fanno ben sperare. Poi i conti li faremo alla fine. Per quanto riguarda il 2009, sicuramente c'è stata un po' di distruzione di valore da parte del sistema vitivinicolo nazionale. Abbiamo abbassato i prezzi, abbiamo ridotto anche l'assortimento, il mix, dal punto di vista qualitativo, e questo non è un segnale positivo, a mio avviso. Faccio presente che noi siamo andati un po' controcorrente come gruppo, perché il prezzo medio nostro è aumentato del 2,8%. E io credo che sia illusorio per un sistema come quello vitivinicolo italiano, che diciamo è molto frammentato e non può fare massa critica, pensare di mantenere le proprie quote di mercato o addirittura di incrementarle usando la leva prezzo. Non è questa la strada giusta, a mio avviso, per valorizzare la produzione vinicola nazionale, per cui credo che dovremmo fare leva su altri fattori competitivi, primo fra tutti le varietà autoctone, l'italianità, il sistema delle eccellenze italiane, magari provando a fare delle operazioni promozionali insieme. Così Santa Margherita, il ministero legato a Ettore Nicoletto. Sentiamo adesso un altro gruppo che anche qui viaggia sugli 11 milioni di bottiglie prodotte all'anno, i 54 milioni di euro di fatturato, quindi grosso per essere il mondo del vino. È il gruppo Masi, l'amministratore delegato Sandro Boscaini. Tra l'altro Masi esporta quasi il 90% di queste 11 milioni di bottiglie prodotte nella zona della Valpolicella, ma non solo, anche in Argentina e in Toscana. Dicevamo l'amministratore delegato Sandro Boscaini. Per quanto riguarda il prezzo, non c'è dubbio che c'è stato qualche caso di dumping di nostri colleghi che hanno preso paura, hanno abbassato il prezzo in maniera eccessiva. A nostro avviso è un grossissimo errore. Quando si innesta o si incomincia la strada del prezzo, non si sa dove si va a finire con la competizione internazionale che c'è. Rispetto alla situazione di oggi, non c'è dubbio che ci troviamo in una realtà diversa da quella dell'anno scorso. Non voglio dire che siamo fuori dalla crisi, ma perlomeno non c'è più la paura della crisi. E in effetti l'anno scorso si era notata comunque un'euforia, che era un'euforia da scongiuro del pericolo. Quest'anno invece è un segno di speranza, di scampato pericolo, è una situazione che effettivamente è in ripresa, anche se la ripresa sarà lunga e lenta. Voi esportate addirittura il 90% degli 11 milioni di bottiglie che producete, siamo quasi 10 milioni, se ne vanno all'estero. Diventa quasi difficile trovarlo in Italia il vino a questo punto, Boscaini. Però com'è andato il 2009, ma soprattutto da dove arrivano i segnali più interessanti nel 2010, come area geografica? Noi abbiamo un osservatorio, penso, abbastanza privilegiato, perché esportiamo in 83 paesi. Devo dire che si nota una situazione a macchia di leopardo. Ci sono alcuni paesi che ancora sono immersi nella crisi, parlo in particolare dell'Inghilterra, dell'Irlanda, dell'Islanda più piccola, alcuni paesi dell'Oriente. C'è una ripresa buona, mi sembra di poter dire, negli Stati Uniti, agevolata anche dal dollaro, che effettivamente oggi ci dà una mano, o l'euro, che si è moderato nel suo posizionamento. Ci sono alcuni mercati dove effettivamente sono quelli che fanno sperare di più, devo dire, dove effettivamente il consumo del vino e il fenomeno vino sta diventando un fenomeno serio nonostante la crisi. Parlo in particolare dei mercati del Scandinavi. La Cina è un mercato sicuramente interessante, non è questo il Dorado che la gente pensa, non l'è mai stato, io non l'ho mai pensato. E allora dal gruppo Masi con il ministro delegato Sandro Boscaini al gruppo Zonin, 25 milioni di bottiglie, 100 milioni di fatturato, anche qui il 50% delle bottiglie se ne va all'estero. Zonin produce dappertutto, in Friuli, in Veneto, in Toscana e in Sicilia. E visto che però è anche presidente della Popolare di Vicenza, gli abbiamo anche chiesto un commento su quello che poi sarà il prossimo tema di Focus Economia, cioè il rischio che Basilea 3, nuove regole con cui le banche devono concedere credito strangoli per le imprese, quel poco di ripresa che si vede, visto che i bilanci del 2009 saranno obiettivamente dei bilanci tutti o quasi tutti in negativo. Gianni Zonin. Questo Vinitaly è all'insegna dell'ottimismo, vediamo molte facce sorridenti girare per gli stand. Abbiamo avuto una presenza importante sia di buyer stranieri che di giornalisti da tutto il mondo e io credo che se buongiorno si vede dal mattino, questo Vignetari potrebbe essere un segnale dell'inizio della ripresa dell'economia in Italia, che parte proprio dalla ripresa del mondo del vino. Ecco, si è discusso molto di denominazione di origine, di legge per proteggerle e tutelare le tipicità italiane, meno di prezzi rispetto all'anno scorso. Cos'è secondo lei, il tema del prezzo è scomparso oppure in realtà chi ci ha provato nel 2009 sta già tornando sui suoi passi, vuol dire chi ha tentato di restare sui mercati abbassando anche i prezzi? Il 2008 e il 2009 sono stati due anni difficili per le vendite, c'è stato un calo delle vendite, un calo dei consumi, un calo della presenza nei ristoranti. Questo ha messo in allarme alcuni produttori che ritengono, secondo me errando, di riprendere le quote di mercato abbassando i prezzi. Non è la scelta migliore e io credo che i consumatori invece devono guardarsi dai prezzi troppo bassi, perché sono un indice di qualità modesta e qualche volta anche peggio. Cambiamo casacca, come dicevamo, e parliamo con il presidente della Popolare di Vicenza. Allora, il settore vitivinicolo, lo ricordavamo prima, è uno dei pochi che in questo momento sorride, ma sappiamo che il resto del paese vede cali a due cifre nella produzione industriale, nella meccanica industriale, meccanotessile, calzature, legno arredo, potrei continuare all'infinito. Allora, qui la situazione è molto semplice. Come ricordava sabato il presidente di Confindustria Marcegaglia da Parma, se le banche applicheranno i criteri rigidi di Basilea 3 a questo punto, quindi gli IAS nuovi, non ci sarà praticamente possibilità di dare credito alle imprese nel 2011, perché i bilanci che usciranno nel 2010, riferiti al 2009, saranno disastrosi. Ora è chiaro a tutti che se non aiutate a traghettare il mondo delle piccole imprese, che lei rappresenta anche con la Popolare di Vicenza, nel 2011 qui arriveremo con talmente tanti morti e feriti che poi anche Basilea 4 si applicherà appunto a 4 imprese, se va avanti così. Prego, Presidente. Il sostegno alle imprese è fondamentale per evitare dei tracolli ulteriori nell'economia del nostro Paese. Ci aspettiamo una moratoria per l'applicazione di Basilea 3, perché sarebbe davvero distruttivo in un momento così difficile inserire dei parametri ancora più restrittivi nella valutazione delle aziende, ma sono sicuro che il nostro governo e i nostri istituti di vigilanza avranno la capacità a Bruxelles di convincere anche gli altri partner, che d'altra parte non se la passano molto meglio di noi, e quindi ci auguriamo che il buon senso alla fine prevalga. Presidente Zonin, ma se la Germania, diciamo, perché sostanzialmente quello è il problema, decidesse di andare avanti nella logica di Basilea 3, nell'implementare tutti quelli che sono i parametri, i coefficienti, obbligando, voi potreste ignorarla, quella logica? No, non è possibile ignorarla, ci sono delle regole, tutte le dobbiamo rispettare. Io credo che però è opportuno che le regole siano condivise. Bisogna prendere atto della situazione dell'economia mondiale. Noi purtroppo in Europa non siamo uno Stato, siamo una comunità, siamo un insieme di Stati che qualche volta camminano in un modo diverso. In Europa oggi c'è solo una politica monetaria, non è sufficiente per la ripresa. Ci vuole un atto di buona volontà, ci vuole un atto di umiltà da parte di qualche Stato, e credo che tutti comprendiamo che con le regole non possiamo far morire le aziende, perché quando poi non ci sono più l'economia non si risolleva più. E di questo tema, cioè di cosa potrà capitare alle imprese europee, non solo quelle italiane, se i criteri nuovi, ancora più stringenti di Basilea, dovessero fare il loro ingresso nei tempi previsti, con un'economia europea ancora in ginocchio, di questo parleremo dopo il GR. Ne parleremo con Luca Paolazzi, ossia colui che ha preparato il documento presentato venerdì a Parma del Centro Studi Confindustria, che ha generato anche quel battibecco con il Presidente del Consiglio Berlusconi, perché ha detto no, Berlusconi ha detto non è vero che c'è declino. Ne parliamo dopo il GR, comunque 349-238-6666 per i vostri sms. Sì. 18:10, seconda parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, il tema di questa seconda parte si chiama, da un lato, i dati diffusi oggi dall'Istat, produzione industriale in Italia a febbraio per la prima volta in crescita così significativa da inizio 2008, più 2,7% la produzione industriale a febbraio rispetto al 2009, invariata invece mese su mese, quindi rispetto a gennaio. Questo però, mentre l'OCSE ci dice che laddove, ossia in Giappone e negli Stati Uniti, la crescita economica sta accelerando a una velocità più forte del previsto, in alcuni paesi, purtroppo ci siamo anche noi, Italia e Francia, vi sono segnali di un rallentamento della crescita economica. Il tutto dopo la due giorni organizzata dal Centro Studi Confindustria a Parma, in cui si è dibattuto declino secondo i dati diffusi dal Centro Studi Confindustria, che va a vedere il PIL pro capite in continuo calo nel nostro paese da anni, oppure, come ha ribattuto il Presidente del Consiglio Berlusconi citando i dati soprattutto di Marco Fortis, no, perché l'andamento delle nostre esportazioni è un andamento molto favorevole prima della crisi e comunque anche il calo del nostro PIL è in linea con quello degli altri paesi. Protagonista di questi numeri è in collegamento con noi il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Buonasera, Luca. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buonasera a te, Sebastiano. Dunque, dicevo, uno dei innegabili protagonisti, non solo per il numero di citazioni che ti ha dedicato la Presidente degli Industriali nel suo intervento, ma anche perché insomma tutto il dibattito si è svolto alla luce, sulla base dei numeri che tu hai fornito, quelli che alcuni hanno voluto interpretare come declino to cure, in realtà riguardavano il calo del PIL pro capite italiano negli ultimi anni e nei prossimi anni, quanto produciamo come PIL ogni singolo cittadino. Prima di tutto però un commento a questo doppio dato, l'OCSE che dice sta rallentando la Francia e l'Italia, però la produzione industriale di febbraio che segna il massimo anno su anno da inizio 2008. Se dovessi fare una battuta seguendo le tue parole ma perché abbiamo mai accelerato? Nel senso, un rallentamento rispetto a che cosa? In realtà abbiamo osservato nei mesi scorsi un forte aumento di questo indicatore anticipatore che segnala le svolte cicliche, come abbiamo detto più volte è un indicatore che è stato calcolato su dei cicli e delle tendenze passate e quelle tendenze passate dell'economia italiana non erano granché esaltanti, per cui anche piccoli progressi portavano apparenti forti accelerazioni. Il fatto che adesso dica che sta frenando, ma io ancora l'accelerazione devo vederla veramente e quindi mi aspetto effettivamente che nella prima metà di quest'anno le cose vadano meglio rispetto alla seconda metà dell'anno scorso dal punto di vista dell'expo, della produzione e probabilmente un po' di investimenti, non certo per i consumi. E sulla produzione industriale invece anno su anno, dicevo io, ferma da febbraio su gennaio, ma dati mai così buoni, va detto, dall'inizio 2008 quanto a produzione industriale appunto a 12 mesi. Beh, teniamo sempre presente qual è il periodo di confronto. Il febbraio 2009 è stato uno dei mesi più terribili della recessione, nel senso che il mese successivo a marzo c'è stato il punto di minimo. Quindi francamente i confronti annui in questa fase non vanno considerati. Perché contano invece quelle che tu hai segnalato poco fa, le variazioni mensili. Lo 0 di febbraio viene dopo un più 1,6 se non ricordo male a gennaio, quindi diciamo conferma quel numero, quell'1,6, peraltro rivisto nettamente ribasso rispetto alla stima precedente. E veniamo quindi al tema generale, tema che ha occupato le pagine anche dei giornali, come sempre i giornalisti categoria a cui io appartengo e anche tu nella tua vita sono imprecisi delle volte. Il dibattito è stato forzato su declino, secondo la Confindustria il paese è in declino, secondo il governo non è in declino. Però oggi il ministro Scajola, proprio commentando questo dato sulla produzione industriale del 2,7% anno su anno, ha detto però è un'ulteriore conferma questo dato del fatto che la ripresa è in corso ed è la migliore risposta a chi continua a parlare di declino. Il riferimento alle parole della Presidente di Confindustria Marcegaglia era abbastanza netto. E allora ascoltiamo questo passaggio di Emma Marcegaglia sabato in chiusura, dopo l'intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi, in chiusura della due giorni organizzata proprio dal Centro Studi Confindustria. Se guardiamo il paese nel suo complesso, se guardiamo il PIL pro capite, se guardiamo il costo del lavoro per unità di prodotto, noi in questi ultimi 10 anni ci siamo fermati, anzi abbiamo in parte declinato. Allora è vero che c'è una parte che vince ancora sui mercati, ma noi dobbiamo guardare all'insieme e l'insieme ha alcuni problemi, a partire non da oggi, ma dagli ultimi 10 anni. Ed è per questo che io penso che noi qui oggi siamo uniti, siamo tanti, siamo forti, e vogliamo proprio dire insieme, tutti insieme, uniamo le nostre forze e giriamo pagina, perché questo è quello che ci chiede la situazione. È vero, in questi 2 anni noi abbiamo vissuto, come tutti i paesi del mondo, una crisi devastante, la peggiore degli ultimi 50 anni. Ed è vero, io do atto al governo, a noi stessi, ai sindacati, che tutti insieme abbiamo lavorato per evitare il peggio. Ci siamo peraltro presentati a questa crisi con un debito pubblico molto alto, avevamo margini di manovra molto bassi, ci siamo uniti, abbiamo tenuto ferme le cose, abbiamo tenuto la coesione sociale, non siamo diventati come la Grecia, siamo riusciti a mantenere il paese insieme e senza dei danni particolari. Però oggi, ribadisco e lo voglio dire, noi sentiamo l'esigenza di dover girare pagina, perché, l'ho detto prima, lo voglio ripetere, i dati scientifici ci dicono che nell'insieme il paese sta declinando. E da lì, anche da questo passaggio, le polemiche sul declino. Allora, Luca Paolazzi, siccome qui veniamo accusati in questo programma di essere troppo pessimisti delle volte, addirittura abbiamo esorcizzato il pessimismo con il gufo, però molte altre volte il nostro ospite è stato un tuo collega economista Marco Fortis, il quale dice no, attenzione che rispetto agli altri paesi, che è un po' la linea guida che ha tenuto il Presidente del Consiglio Berlusconi nel suo intervento, se vai a vedere l'export prima della crisi noi andavamo meglio degli altri quanto incremento dell'export, il PIL italiano è calato a livello complessivo come in Germania, il deficit è salito meno che in Francia e Spagna. Voi invece avete puntato l'attenzione sul PIL pro capite, cioè prendi il PIL e lo dividi per numero di abitanti. Ora, non vorrei entrare in una discussione accademica, ma non si rischia alla fin fine di guardare un bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto? Oppure, e perché avete scelto il PIL pro capite come indicatore, dimostrando che abbiamo perso 5 punti rispetto alla media europea negli ultimi anni, anzi di più quando eravamo sopra, e nel 2014 saremo sotto di 10 punti percentuali rispetto alla media europea? Abbiamo scelto il PIL pro capite, e comincio dall'ultima domanda, perché è in tutto il mondo considerato l'indicatore principe del benessere economico raggiunto da una nazione. Ora c'è molto dibattito in corso se tutto quello che rappresenta il benessere, la soddisfazione del vivere, la qualità della vita possa essere racchiuso nel PIL. Nel rapporto che abbiamo presentato a Parma, che si intitola Libertà e Benessere, l'Italia al futuro, c'è un articolo molto interessante di Enrico Giovannini, che è presidente dell'Istat, che dà conto di questo dibattito internazionale e di come sempre più ci si orienti a prendere un insieme di indicatori e non soltanto il PIL. Però è anche vero che senza aumento del PIL anche quegli altri indicatori tendono a cadere, come ci ha insegnato un brillante economista americano che si chiama Benjamin Friedman. Quando la crescita economica manca, quando anzi c'è un arretramento del benessere per la maggior parte della popolazione, in generale la società civile peggiora. In fondo, se vogliamo, l'incattivirsi del dibattito politico nel nostro paese, che non è una cosa di ieri o di oggi, e se vogliamo anche le tensioni sotto traccia sociali che ci sono e che si manifestano, ci dicono che c'è qualcosa che non va, che non funziona. E allora il PIL pro capite ci dà una misura l'insieme di quel che non, di quello che non va. Il pro capite italiano negli anni 2000 prima è rimasto sostanzialmente fermo e poi con la crisi è caduto. Chiaro, è caduto anche negli altri paesi durante la crisi, solo che negli altri paesi prima della crisi era aumentato e da noi no. Allora, dopo il traffico, perché siamo un po' in ritardo, anche gli altri temi, gli altri timori, a partire da un'ulteriore stretta delle banche verso le imprese dovuta anche ai criteri di Basilea 3. 349-238-6666 per i vostri sms, poi in conclusione anche l'aggiornamento di borsa. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Il nostro ospite adesso è il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi, che insomma tanta eco ha generato e clamore in alcuni casi con i dati diffusi nella due giorni confindustriale a Parma. Un altro aspetto che è emerso con chiarezza dal punto di vista economico, oltre a quanto abbiamo appena ricordato, cioè le difficoltà dell'economia italiana, declino diciamo in chiave prospettica, riguarda il rapporto banca-impresa. In sostanza, se Basilea 3 entrerà in vigore, arriveranno nuove regole, lo dico in maniera un po' superficiale, ancora più strette, ancora più stringenti, a cui le banche dovranno sottostare per concedere credito alle imprese. Siccome il 2009 è stato un anno disastroso, difficilmente le imprese o pochissime imprese avranno i bilanci in ordine. Se uno applicasse rigorosamente Basilea 2 e poi Basilea 3, le banche non dovrebbero quasi concedere credito alle imprese. Ecco perché la Presidente del Confindustria Marcegaglia ha chiesto che vi sia quasi una moratoria, che si capisca che insomma negli ultimi due anni è successo di tutto a livello di finanza e economia mondiale. Pensiamo che la situazione della restrizione del credito possa peggiorare. Perché? Perché noi presenteremo, a parte qualche fortunato dei bilanci nel 2009, nettamente peggiori rispetto a quello del 2008, quindi la nostra qualità del credito si abbasserà. Perché, come dire, c'è un problema di maggiore necessità di finanziamento da parte nostra per cogliere i piccoli primi segnali di miglioramento, ma soprattutto perché c'è questa spada di Damocle di Basilea 3. Questo è un tema importante, Presidente Berlusconi, te lo pongo all'attenzione perché noi di questo siamo molto preoccupati. In questo momento storico, chiedere alle banche ulteriori restringimenti di requisiti patrimoniali non va bene. In questo momento la priorità deve essere ritornare a finanziare le imprese sane, quelle che cercano di scommettere anche in un momento difficile come questo. Allora è evidente che tutti noi vogliamo nel medio termine banche più patrimonializzate, che non scommettano pesantemente sul debito per evitare che succeda quello che è successo due anni fa, anche se le nostre banche, va detto, non hanno preso gioco a questo azzardo, ma in questo momento porre ulteriori requisiti restringenti sulle banche vuol dire una cosa chiara, vuol dire che andiamo tutti a fondo perché noi non avremo credito per poter reggere questo po' di miglioramento che c'è, le banche dovranno fare delle scelte che li costringerà a darci meno credito e il tutto significherà andare a fondo. Quindi Presidente Berlusconi, io ti chiedo di prenderti cura di questo tema e ti chiedo di portarlo a livello europeo. I banchieri centrali ragionano in un certo modo, noi dobbiamo ragionare da gente pragmatica, concreta, e chiediamo alla politica di prendere una posizione forte a livello europeo per evitare che questo problema diventi un problema serio, gravissimo, che mina tutti i discorsi che poi andremo a fare in futuro. Allora, Luca Paolazzi, diciamola tutta, dietro questo rigore da Bundesbank, cioè di una banca centrale europea che non si è mai liberata dal cappello della Germania e della banca centrale tedesca, c'è un po' di miopia o egoismo tedesco, come molti sospettano, cioè il fatto che tanto la Germania, avendo imprese manifatturiere grosse, di medie e grosse dimensioni, vocate all'export, conti di avere meno problemi di altri paesi? Perché sarebbe veramente paradossale se si applicassero delle regole facendo finta che non sia successo niente negli ultimi due anni a livello mondiale e anche a livello europeo quanto a crisi finanziaria e poi economica. Io lascerei perdere un attimo la questione egoistica nazionalistica, meglio ancora, perché quando si parla di nazione non è egoismo, perché non so bene dove venga o origini questa idea che dietro il progetto di Basilea 3 ci sia la Germania. A me pare che sia il frutto di un dibattito internazionale a cui hanno contribuito i banchieri centrali guidati nel Financial Stability Forum, che poi è diventato Financial Stability Board, da Mario Draghi, del governatore della Banca d'Italia. diciamo che mi pare difficile che la Germania guidare, capitanare questo corso, visto che le banche tedesche, complice una vigilanza scarsa, e la vigilanza in Germania sulle banche non compete alla Bundesbank, non compete la Bundesbank, dicevo, una vigilanza scarsa, erano più esposte al disastro finanziario, sia per aversi messo in pancia titoli tossici, sia per aver fatto ricorso a una leva enorme. Deutsche Bank era una di quelle con la leva più grande, cioè rapporto attività capitale tra i più alti, quindi hanno dovuto ricorrere i tedeschi, inteso come governo tedesco, a salvataggi delle loro banche. Non so bene se effettivamente sia la Germania dietro a questo, mi sembra difficile. Altra cosa è la questione che riguarda i rapporti interni all'Unione Europea, tra la Germania e altri paesi, rapporti che sono difficili, perché il modello tedesco non è un modello esportabile, e soprattutto se fosse esportato così com'è all'intera Unione Europea, probabilmente porterebbe tutta l'Unione su un sentiero di stagnazione, perché è un modello che punta molto sull'export come traino. Allora, perché si punti all'export come traino, occorre poi qualcuno che importa. Ma è corretto, cioè, ma Basilea, al di là del ruolo tedesco, secondo te si rischia per così un principio quasi di inerzia mentale dei banchieri centrali di applicare Basilea 3? Già sta avvenendo, oggi c'è una dichiarazione del direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli che dice, insomma, sta già impattando su una restrizione del credito alle imprese Basilea 3, si rischia di avere appunto per fase inerziale l'applicazione di una cosa che appartiene a un altro mondo, a un mondo che non abbiamo mai conosciuto, a un mondo senza crisi? Si rischia perché, come sempre succede sui mercati finanziari e sui comportamenti peraltro delle persone, chiunque, voglio dire, di voi, di fronte all'annuncio che avverrà qualcosa, ci si ricomincia a preparare in quella direzione. Se nel dibattito, peraltro, va a dire, non è stata ancora varata, non è stato ancora detto esattamente come sarà, si sa che dovrebbe partire dal 2012 e quant'altro, però se quello che è venuto fuori fino adesso, cioè per esempio una più alta patrimonializzazione delle banche, fosse applicata anche solo dal 2012, necessariamente le banche comincerebbero a dover essere maggiormente patrimonializzate, che vuol dire fondamentalmente ridurre la propria capacità di prestare o avere più capitali che però dovrebbero raccogliere sul mercato, quindi la cosa sarebbe più o meno analoga in realtà. Certo. Da questo punto di vista l'annuncio fa già una restrizione, e il fatto che si ventili questo tipo di modifica strutturale porta in quella direzione. Grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro di Confindustria, chiara anche l'analisi per cui, insomma, nonostante i progressi fatti negli ultimi decenni, vi sia una difficoltà a restare produttivi, competitivi, un declino in termini di PIL pro capite prodotto negli ultimi anni che in chiave prospettica andrà avanti anche fino al 2014. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, per ora buona serata. Radio 24, la passione si sente.